Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Poteva mancare l'Umbria alla corte dei Casalesi? No. Un conto sono le voci e un altro conto sono le prove. Quelle hanno cominciato a raccogliere la Guardia di Finanza e la Procura distrettuale antimafia di Perugia, che ha indagato 16 persone per truffa aggravata, riciclaggio, bancarotta fraudolenta, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ovviamente con l'aggravante del metodo mafioso. La base era Perugia, ma le ramificazioni si estendevano all'Umbria, alla Toscana e alle Marche. Quel che vale la pena sottolineare è la vocazione imprenditoriale del clan camorristico. Mi sono divertito ieri a vedere il filmato che la Guardia di Finanza di Perugia ha effettuato per illustrare in conferenza stampa l'operazione Apogeo. Quello che colpisce è che a un certo punto le immagini si soffermano su un intero cantiere ancora in fase di costruzione, che rientra nel sequestro di beni mobili e immobili per un valore stimato di oltre 100 milioni. Una serie di fotogrammi che certificano ancora una volta che il settore dell'edilizia è quello maggiormente esposto al rischio di infiltrazioni. L'indagine ha fatto emergere cospicui investimenti ritenuti di provenienza illecita attraverso società del settore alberghiero, della ristorazione e dell'edilizia, molte delle quali con sede inesistente o fittiziamente collocata all'estero e ovviamente operanti mediante prestanome. Ma questa operazione fa emergere alla luce del sole che in tempi di grave crisi per l'economia sono proprio loro, le mafie, ad essere pronte per invadere i mercati di capitali sporchi. E con capitali sporchi. Anche in Umbria, un tempo isola felice, sembra che il sistema funzioni. La supposta associazione da delinquere legata ai clan di Villa Literno acquisiva attività imprenditoriali in difficoltà finanziarie che, una volta svuotate del loro portafoglio economico, venivano utilizzate per truffe ai danni dei fornitori, false fatturazioni per operazioni inesistenti e via via di questo passo fino a condurle al fallimento. Grazie in regia Fabio Cantadori e in studio a Luca Cremonese. Vi auguro buona giornata e a domani.